Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Bentornati a Ethno Chic, buonasera a tutti e buonasera Babe. Buonasera Vladimiro, 21 marzo 2018, quindi primo giorno di primavera, sono le 21:31 minuti primi, 32 in questo preciso momento, e siete in diretta qua a Radio Città del Capo, nuovissima puntata di Ethno Chic. È primavera, il sole scotta, e quindi dove andiamo? È un posto anche più caldo, direi. Sì, restiamo in Medio Oriente per quest'ultima, diciamo, quest'ultima puntata per ora dedicata all'universo del Makam, insomma, in tutte le sue declinazioni. Abbiamo visto un po' questa musica di tradizione millenaria, insomma, svilupparsi. Abbiamo avuto ospiti in studio, abbiamo sentito appunto di questa musica ancora viva attraverso questi laboratori dell'Ensemble Beirun che vengono svolti a Venezia, parlando con Giovanni De Zorzi, appunto, dell'Università Casso Foscari, e abbiamo sentito molti esempi musicali di vario tipo e di varia estrazione. Oggi faremo un po' un quadro conclusivo di questo, ma non certo esaustivo, perché veramente gli ascolti, selezionandoli, sono veramente infiniti, insomma, e vanno da quando abbiamo le prime registrazioni fino ai giorni nostri. E non potevamo che iniziare questa puntata riprendendo un po' quello che avevamo dovuto tagliare per questioni di tempo, per lasciare spazio al notiziario di Popolare Network la scorsa settimana, ovvero sia con questi brani di questo ensemble, questo Al-Chalgi al-Baghdadi, questo ensemble tipico appunto della musica di Baghdad, con questo cantore solista, appunto, Yusuf Omar, che queste registrazioni sono del 1975, e appunto questo cantore solista canta accompagnato da questo ensemble tradizionale. È una tradizione ancora viva ancora oggi, e qui andiamo a ascoltarsi in un makam che appunto si chiama Asham. لقد نصل الدجى لقد نصل الدجى فمتى تنام أهم لقد نصل الدجى فمتى تنام أهم ذاب نومك أم هيام محزون غفى المحزون والشاكي واخفى أخو البلوى ونام المستهان غفى المحزون غفى المحزون والشاكي أخو البلوى تقلب الكفين آنان وآونة يقلبك السقاء جليل من جاء حتى تعلم من محاجرك الغمام من الذكرى وهل عاد الغرام. Ma qua dove eravamo di preciso, Vladimiro? Eravamo proprio a Baghdad nel 1975. E questa è una tradizione degli Iraqi Makam, che è particolare proprio, insomma, dell'Iraq, con questi ensemble musicali piuttosto, dove c'è sempre un cantore solista, soprattutto, che di solito sono degli uomini, però a volte possono anche essere delle donne. L'altra volta abbiamo ascoltato un esempio, che vengono accompagnati da questa specie di piccolo ensemble orchestrina, dove c'è il santur, questa specie di poi c'è una specie di violino che si chiama josa, che è un violino di quelli, uno strumento d'arco di quelli suonati diritti, più le tabla e altri strumenti. Le tabla naturalmente irachene, insomma, e che sono ensemble che si chiamano Al-Chalghi Al-Baghdadi. Ma pensi che in questi 43 anni sia rimasto qualcosa dopo tutte le guerre che ci sono state? Ma sicuramente qualcosa sì è rimasto, perché comunque poi sentiremo anche un esempio più moderno di un suonatore che viene dalla Siria, quindi un altro paese che è tuttora in guerra. E diciamo che questa tradizione del makam resiste ancora da prima dell'anno 1000, quindi con tutte le sue trasformazioni, eccetera, e variazioni, rinnovamenti, eccetera, in qualche modo è rimasta abbastanza viva. Fra l'altro io avevo anche una cassetta con sempre un ensemble tipo questo, che aveva fatto un ponte per proprio negli anni 2000, insomma, quindi chiaramente molti di questi musicisti poi magari hanno dovuto emigrare al proprio paese, però la tradizione è rimasta, perché era veramente molto una tradizione molto forte, molto che è molto radicata, insomma, quindi non ci sono guerre, non ci sono eventi di nessun tipo, insomma, quella tradizione rimane, insomma, probabilmente se avessimo qualcun locale ci potrebbe dare ancora degli elementi in più, insomma. E così come anche una tradizione, anche perché poi questa tradizione non è quella poi solo stanziale legata alle città urbane, ma anche si sposta e a volte magari porta degli stili da, per esempio, da Baghdad fino, come nel caso prossimo, fino al Libano. Per esempio questo stile Rash, cosiddetto Rash, sarebbe stato importato in Libano e nella regione da un certo Ibrahim, che appunto era musicista iracheno, che veniva da Baghdad proprio, che appunto, come dicevamo l'altra volta, insieme a Kirkuk e Mosul è diventato un po' un centro di questa produzione culturale, musicale nel secolo scorso, e sentiamo eseguire un Rash in makam atarkord da questo musicista che non ha una formazione musicale accademica, ma è vissuto nel deserto, è vissuto, insomma, diciamo, nel contatto con i beduini, insomma, ed è Mata Mohammed, che è un suonatore di buzuk, che è uno strumento, un liuto a manico lungo a due corde, che è tipico appunto di quella regione. È uno strumento molto particolare e lui ha un approccio nell'improvvisazione su questi makam molto, come dire, molto spontaneo, molto libero, assolutamente non accademico, e lo sentiamo in questa improvvisazione molto piuttosto lunga, e vi invitiamo appunto ad avere un ascolto piuttosto attento. Thank you. Thank you. Beh, avete appena ascoltato l'intera facciata di un LP. Sì, esatto, era il lato A di un vinile, appunto, che si chiamava un po' in modo vago Antologia della musique populaire arabe, Mattar Mohammed dal Libano, classe 1940, questo musicista nomade che suonava questo strumento a due corde, il buzuk, il cui nome poi appunto buzuki turca, mi sembra molto simile. Esatto, sì, ha sempre quella radice. E queste improvvisazioni in questo modo, questo makam a tarkord, che è un modo particolare che appunto Mohammed, Mattar Mohammed, di improvvisare in questo makam, che per lui esprimeva un sentimento lirico. Come sappiamo, insomma, i makam di solito sono molto legati a momenti, a stati d'animo, a momenti della giornata, insomma. E da questo stile improvvisativo, potremmo dire molto spontaneo, molto istintivo, invece è uno stile un pochino più potremmo dire più accademico, più classico, più ricercato, di un musicista che appunto ha fatto anche degli studi e che tuttora fa, anche se è nato ad Aleppo nel 1946, appunto questo musicista che facciamo sentire è siriano, il suo nome è Muhammad Kadri Dalal, e facciamo sentire una registrazione non come quella che abbiamo sentito adesso, che appunto è stata fatta dall'Istituto per gli Studi Comparati di Berlino sul campo, quindi in Libano, ma una registrazione fatta alla Maison de Culture du Monde di Parigi, quindi una situazione più quasi da concerto o da studio, una registrazione molto più recente del 2001, in cui appunto Kadri Dalal si è voluto misurare appunto con dei makam un po' insoliti, questo è il titolo anche di questo CD della Inedit, in cui appunto sentiamo dei makam che non, nel taksim, quindi le improvvisazioni su dei makam che non sono così comuni. Il primo esempio che facciamo ascoltare è un makam Nakris, appunto registrazione 2001, in cui sentiremo l'esposizione tematica, poi la variazione, lo sviluppo e la conclusione. Insomma, thank you. Questo appunto era Mohamed Kadri Dalal, nativo di Aleppo, il quale ha una formazione dalla musica sufi, però non solo, anche nella musica tradizionale appunto della sua città, anche poi la cosiddetta musica classica araba, e poi appunto ha girato, insomma, sia per concerti che per altre cose, ha fatto anche studi musicali, infatti abbiamo visto molta differenza, no? Sembrano cose più impostate, appunto, più accademiche, tra virgolette. Sì, esatto. Rispetto a prima, sicuramente. Sicuramente più accademico, più classico, tra virgolette, piuttosto che lo stile Imatar Mohamed, che invece è uno stile molto più libero e spontaneo, forse è che ricorda quasi alcune cose dei raga indiani, insomma, con questo incrementare del ritmo e dell'intensità, dell'improvvisazione che parte molto lentamente, con poche note, arriva alla fine con uno stile molto concitato. Ma suona anche sghembo, sì, magari sì. L'essere nomade l'ha portato chissà dove a raccattare musiche, armonie, ritmiche, anche sì. Molto più a est della Turchia. Fra l'altro questo disco appunto è molto interessante, vabbè, a parte che è piuttosto raro, insomma, perché non si trovano su internet facilmente queste registrazioni, però è interessante perché gli viene lasciato proprio molto spazio, mentre a volte su alcune cose che ho trovato su YouTube sono interventi, insomma, tipo, non dico televisivi, però insomma un pochino più, in cui lui è più compresso, più legato magari a uno stile più di che il pubblico, comunque l'ascolto che viene richiesto è un po' differente. Qui lui proprio può esprimersi al massimo, così. Vi facciamo ascoltare un altro brano di questo musicista siriano, appunto Mulammar Kadri Dalal, che è un Makal Dal Nishim, che è una combinazione del genere Rast e Shab, e che sono, dal punto di vista appunto di colore, di timbrica espressiva, molto contrastante, e quindi di solito è usato, non è molto usato, Makal Dal Nishim. Thank you. Questo appunto era questo Magal Dil Nishin, e con questo vi salutiamo, non prima di ricordarvi e raccomandarvi il concerto che appunto ci sarà questo sabato, ricordiamo, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, su in Efes delle Confraternite Sufi Bektash di Istanbul e dei Balcani, ovvero se il concerto conclusivo dei seminari di musica ottomana 2018 a cura di Kuzi Erguner, e si svolgerà questo sabato 24 marzo ore 18 all'isola di San Giorgio Maggiore, Cenacolo Palladiano, a Venezia. Sì, non proprio dietro l'angolo, ma però se avete, se potete, volete fare una gita fuori porta, sicuramente ne vale la pena. E verrà anche presentato, come abbiamo sentito la volta scorsa, il CD book sulla musica da Herat a Istanbul, che era l'argomento del laboratorio dell'anno scorso. Insomma, tutti gli anni c'è questo bando. E noi invece la prossima settimana ci sposteremo a un po' a sud, un po' a ovest, e avremo un ospite in studio e vedremo. Ci vediamo mercoledì, anzi ci sentiamo mercoledì. Buonanotte a tutti. Buonanotte.